la strada ci sono solo io, circondato dal deserto attorno a me. Il silenzio taglia tutta la città, grande spirito mi chiama dai falò. Senza via, la mia gente è come un'aquila senza ali. Tu cavalca, cavalca mio cowboy, che la terra tanto ce la rubi a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. Ce l'avevamo già. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, basta le vostre bugie. Tu cavalca, cavalca mio cowboy, tanto ce la fotti a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. Oh, ma cosa dici? Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, basta le vostre bugie.